Perché il potenziale incomparabile che ha la Chiesa non viene sfruttato meglio per annunciare la missione che Cristo le ha dato? Sì, dobbiamo naturalmente chiedercelo. Ci troviamo di fronte allo scontro tra due mondi spirituali, il mondo della fede e il mondo del secolarismo. La questione è: in che cosa il secolarismo ha ragione? In cosa dunque la fede deve fare proprie le forme e le immagini della modernità e in cosa deve invece opporre resistenza? Questa grande lotta attraversa oggi il mondo intero. I vescovi del terzo mondo mi dicono: anche da noi c'è il secolarismo, ma qui si mischia stili di vita ancora molto arcaici. Spesso ci si chiede veramente come sia possibile che i cristiani, che personalmente sono credenti, non trovino la forza di rendere politicamente più operante la loro fede. Noi dobbiamo soprattutto cercare di fare in modo che gli uomini non perdano di vista Dio, che riconoscono quale tesoro possiedono e che poi essi stessi, a partire dalla propria fede, nello scontro col secolarismo, possano praticare il discernimento spirituale. Questo processo immane è il vero grande compito dell'ora presente. Possiamo soltanto sperare che la forza interiore della fede che c'è negli uomini acquisti potenza anche nell'opinione pubblica, formando l'opinione pubblica e così facendo impedisca alla società di cadere in un pozzo senza fondo.